English Bit di Giulia Crivelli. Mainstream. Meet the influencers bringing modest fashion to the mainstream. La sezione dedicata ai video del sito del Telegraph, uno dei più importanti quotidiani inglesi, titolava così il servizio dedicato alla moda, prendendo spunto dalla recente Fashion Week di Londra, che si è conclusa il 19 settembre, due giorni prima che iniziasse quella di Milano. Ecco a voi gli influencer che trasformano la moda poco conosciuta in mainstream. Le parole che ci interessano, anche perché da un po' di anni vengono usate in Italia senza mai tradurle, sono influencer e mainstream. Cominciamo dalla seconda, che ha una storia più lunga. Letteralmente significa la corrente, stream, principale, main. Può essere usato in senso letterale, riferendosi all'acqua o alla corrente elettrica, ma è utilizzato in tutto il mondo per indicare ciò che è diventato opinione diffusa, atteggiamento condiviso. His radical views place him outside the mainstream of American politics. Le sue idee radicali lo escludono dallo scenario politico americano principale. È usato persino come verbo. Vegetarianism has been mainstreamed. Essere vegetariani è diventato normale. Come aggettivo può essere altrettanto utile. The mainstream media were not covering the party. I principali organi di stampa non parlavano della festa. Veniamo a influencer, letteralmente coloro che esercitano influenza, influenzatori. Da quando i social network hanno fatto irruzione nel panorama della comunicazione, il termine è usato per indicare le persone, in genere millennials, cioè coloro nati dopo il 1980, che attraverso internet o una presenza fisica amplificata da internet riescono a influenzare i gusti, innescare mode o trend, sia nell'abbigliamento sia in altri campi, come quello musicale. Da qui il titolo del Telegraph. Se gli influencer si concentrano su un marchio fino ad allora considerato modesto o sconosciuto, possono trasformarlo in un brand mainstream, cioè conosciuto e soprattutto comprato da molte persone. Si tratta di un neologismo anche in inglese, la maggior parte dei vocabolari non lo riportano ancora, ma possiamo sentire dire o vedere scritte frasi in modo sempre più frequente come key points of influencer marketing, i punti principali di una strategia basata sugli influencer che, per tornare alla moda, in queste settimane della moda Londra e Milano sono stati importantissimi, anzi potremmo dire sono state, perché la maggior parte di questi influencer sono donne.